ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo 9. Le visioni di Bianca Maria. Ambedue i giocatori erano saliti pian piano per le scale come due malfattori o come due giovanotti timidi che hanno trasgredito agli ordini paterni e, portando ognuno la chiave di casa in tasca, avevano chiuso la porta senza far rumore. Entrando nel suo appartamento e poi nella sua stanza, Cesare Fragalà, arrivato al parossismo del pentimento, tremava come un bambino. Solo il placido respiro di sua moglie dormiente lo calmò un poco, ma temeva che si svegliasse, che lo interrogasse, che indovinasse la verità per quell'intuito mirabile e spaventoso che hanno le donne. Si spogliò alla pochissima luce di una lampada accesa innanzi a una Sant'Agnese e si coricò con una precauzione infinita, tremando, sì, tremando di svegliare sua moglie, e nel cuor suo contrito, desolato, giurò di non giocare più un soldo. Solo questo giuramento e la saldezza della sua costituzione lo liberarono dall'insonnia, che si mette al capezzale di tutti i giocatori. Ma l'insonnia era seduta al capezzale di Formosa. Invano egli aveva tentato di leggere per calmare la mente che fantasticava le tavole matematiche di Rutilio Benincasa. I numeri gli danzavano la ridda innanzi agli occhi. Invano aveva tentato di dire il rosario per distrarsi nella preghiera, per umiliare il suo cuore innanzi alla volontà dell'Eterno. L'orazione usciva monca e fredda dalle sue labbra. Lo teneva una potente febbre di fantasia che tendeva tutti i suoi nervi e lo faceva sussultare sul letto vibrando come la corda di uno strumento sonoro. Lo esaltava una follia che dalla notte, dall'ombra, dalla solitudine si faceva dominante, dominante tutti i pensieri, tutti i sentimenti. Non poteva resistere, coricato. Malgrado il freddo si alzò, si vestì, si pose a passeggiare nella sua stanza gelida. Non avvertiva il freddo, aveva calde le mani e la testa. La fiammella della candela stearica gli pareva avere un immenso fulgore. Tutto era silenzio nella sua casa. Egli non voleva mai che lo aspettassero. E i due poveri vecchi servi, Giovanni e Margherita, che egli aveva spogliati del denaro, che essi avevano chiesto in prestito per far vivere Bianca Maria, dormivano nell'anticamera stanchi e dolenti. Forse Bianca Maria dormiva nella sua fredda stanza da molte ore, certo. Ma il marchese Carlo Cavalcanti, arso dal suo delirio di giocatore che spera nella vincita e dispera della vincita, arso da tal delirio, non poteva sopportare che tutti dormissero in casa quietamente, placidamente, mentre egli spasimava di angoscia e di speranza. Ma no, non aveva paura egli della solitudine della notte e dei piccoli rumori dei vecchi mobili, dei vecchi soffitti scricchiolanti, delle porte stridenti. Non temeva di nulla in quella glaciale casa dove era morta di languore, di dolore sua moglie, dove pareva ancora si aggirasse l'ombra mesta dell'estinta. Che paura! Egli chiedeva, invocava una voce, una rivelazione, una visione. Sarebbe stato contento, avrebbe avuto la emozione della felicità e non dello spavento se avesse potuto vedere qualcosa. Ma la sua anima era troppo macchiata di peccati. Il suo cuore era impuro di terreni desideri. Ci voleva un'anima candida, un cuor virginale per avere questo dono spirituale del cielo, la grazia, per cui si vede quello che agli altri occhi umani non è concesso di vedere. Bianca Maria dormiva. Dormiva la fredda creatura, così prossima alla grazia, e che pure si negava ad appagare il desiderio di suo padre. Egli uscì dalla sua stanza, attraversò il corridoio, passò innanzi al grande salone e si arrestò davanti alla porta chiusa della stanza di sua figlia. Ascoltò. Nessun rumore. Dormiva la gelida creatura che non aveva metà dei tormenti di suo padre e che non voleva chiedere a Dio e alla Vergine la rivelazione. Una sorda collera si mescolava alla follia del venerdì. il marchese Cavalcanti, due o tre volte andò su e giù per il corridoio, tentando allontanarsi dalla stanza della sua figliuola, ma non riuscendovi, tanto lo mordeva la curiosità di sapere da lei, che era candida, virginale, la rivelazione dello spirito che, certo, quella notte ella aveva dovuto avere. Non poteva mancare. Don Pasqualino, l'assistito, dopo un digiuno volontario di 3 giorni, dopo essersi inflitto la disciplina per 2 notti, sulle spalle e sul petto nudo scarno, aveva udito dallo spirito che lo assisteva che la rivelazione l'avrebbe avuta Bianca Maria. Lo spirito non mente, e a un certo punto, quasi macchinalmente, come se lo spingesse una forza a cui gli parve di obbedire, egli mise la mano sulla maniglia. Essa stridette, la porta fu aperta. Ma un grido acuto rispose di dentro allo stridore, un grido della fanciulla, il cui lievissimo, quasi sospettoso sonno era stato turbato e che si era levata sul letto, nella camiciuola bianca, coi neri capelli disciolti per le spalle, con gli occhi sbarrati e le convulse mani puntate sulle coltri. «Sono io, Bianca, sono io», mormorò il marchese Cavalcanti avanzandosi. «Chi? Chi?» chiese ella tremando di paura, non osando muoversi. Io, Bianca, ripeté lui impazientendosi. Ella sospirò profondamente, senza dire nulla, ma il respiro le rimase affannoso. Il marchese era giunto presso il letto di sua figlia, guidato dal fiochissimo lume di una lampada, accesa innanzi a una immaginetta della Madonna. La fanciulla era ricaduta sui cuscini e guardava il soffitto. Il marchese si era seduto accanto al letto e le sue dita nervose giocavano con la frangia bianca della coltre. «Perché hai tanta paura?» interrogò lui dopo un lungo silenzio. «Non so, è più forte di me». «Quando si è nella grazia del Signore, non bisogna avere paura», sentenziò lui severamente. «Hai qualche peccato mortale sulla coscienza?» «No, non credo almeno», disse ella, esitando. Tacquero. Il marchese Cavalcanti guardava nella penombra. «È venuto lo spirito?» chiese poi sottovoce con una intonazione di mistero. «Oh!» disse ella sospirando di nuovo e chiudendo gli occhi, celandosi il volto fra le mani. «È venuto!» insisté lui, in cui già ruggiva la ferocia del giocatore. «Per carità, se mi volete bene, non mi parlate di ciò!» disse ella prendendogli la mano, baciandola, per pregarlo meglio. «Dimmi se è venuto», tornò a replicare lui implacabilmente. Ella, comprendendo di non poter sfuggire a quella persecuzione, guardò disperatamente la Madonna, poi nascose la faccia nei cuscini. «Dimmi, dimmi se è venuto», stridette la voce di lui mentre abbassava il capo sui cuscini, quasi a soffiare la sua magnetica curiosità nel volto a sua figlia. «No», disse ella con un filo di voce. «Tu menti». «Non mento. Tu menti. Lo spirito è stato qui. Io lo sento». «Per carità. Per carità», disse ella con una trepidazione infinita. «Come lo hai visto? Nella veglia? Nel dormiveglia? Nel sonno? Era una figura bianca, non è vero? Con le palpebre abbassate, ma sorridente. Che ti ha detto? Una voce debole, debole, non è vero? Qualche cosa che tu sola puoi aver udito». «Mio padre, voi volete che io muoia», pronunziò ella desolatamente. «Paure da femminetta», disse egli con disdegno. «Chi mai è morto per una comunicazione suprema? Il contatto dell'anima con quella di uno spirito è una fonte di vita. Bianca Maria, non essere ingrata, non essere crudele, dimmi tutto. Voi volete che io muoia?» ripeté ella disperatamente e rassegnatamente. «Sei una sciocca. Vuoi che ti preghi? Io tuo padre? Ebbene, ti pregherò, non c'è che fare. I figli sono ingrati e malvagi. Rispondono al nostro amore con la crudeltà. Ti prego, Bianca. Te ne prego come se tu fossi la mia santa protettrice. Dimmi tutto». «Io morirò di ciò, mio padre», mormorò lei con la voce soffocata dai cuscini dove frenava il suo pianto e i suoi singhiozzi. «Ascolta, Bianca», egli riprese freddamente, frenando ancora il suo sdegno. «Tu devi credermi. Io sono un uomo. Sono sano. ho la mia ragione, ho la mia logica. Ebbene, è per me articolo di fede, chiaro come la luce del sole, che tu hai avuto in questa notte, o avrai l'apparizione dello Spirito, che verrà per benedire la nostra famiglia, che ti dirà le parole della felicità. Se ciò è accaduto, tanto meglio. Ma il tuo obbligo di figlia obbediente, di figliuola amorosa della casa Cavalcanti, è di dirmi tutto subito. Non so nulla, disse ella seccamente. Lo giuri? Lo giuro, non so nulla. Allora questa visione verrà in queste consecutive ore della notte. Vado in cappella a pregare. Sono un peccatore, ma anche i peccatori possono chiedere una grazia. Pregherò perché tu veda e senta lo Spirito. No, non ve ne andate, gridò ella sollevandosi sul letto e attaccandosi al suo braccio con una stretta disperata. E perché? Non ve ne andate, per amor di Dio. Se avete carità, restate qui. Debbo andare a pregare, Bianca, esclamò lui, esaltato, non intendendo lo stato convulso della sua figliola. No, no, restate. Io non posso stare sola qui, senza morire di spavento. E parlava affannosa, pallida, con le mani tremanti che stringevano sempre il braccio del padre. Egli udì che il respiro della fanciulla si faceva affannoso e ogni tanto, quasi le mancasse l'aria, un lungo sospiro le sollevava il petto oppresso. Due volte gli fece per riporre il capo sui cuscini del letto, ma ella ebbe un fremito di paura. «Non mi lasciar sola, per amor di Dio!» balbettava quasi infantilmente. «Non ti lascio! Dimmi che cosa vedi!» ripeteva lui, indomito e implacabile. «Oh, è orribile!» balbettava Bianca, tremando ancora, tremando sempre, come se il suo corpo fosse diventato quello di una vecchia settantenne. Che è orribile. Parla, Bianca, raccontami tutto. Dimmi che cosa hai visto. Oh, faceva lei lamentandosi, disperandosi. Che? Gridò il marchese, scosso anche lui. È lo spirito, lo spirito! Balbettò lei con la voce cambiata di tono, profonda, cavernosa. Dov'è? Disse il padre sottovoce. Sulla soglia, là, guardatelo, disse ella fermamente, energicamente, sbarrando gli occhi verso la porta. Ma non vedo niente, niente, sono un povero peccatore, gridò disperatamente il marchese Cavalcanti. Lo spirito è là, sussurrò lei, quasi che nulla avesse inteso. Come vestito? Che fa? Che dice? Bianca, Bianca, pregalo. È vestito di bianco. Non si muove, non dice nulla, mormorò ella parlando in sogno. Pregalo, pregalo che ti parli, tu sei innocente, Bianca. Non parla, non vuol parlare. Bianca, scongiuralo per il nostro Dio, per la sua forza, per la sua potenza. Tacquero. Tutta l'intensa attenzione del marchese Cavalcanti era su quella porta, dove solo sua figlia vedeva lo spirito, mentre tutto l'animo di lui era una preghiera. Ella giaceva sempre più affannata, mentre le ardenti mani sottili stringevano convulsivamente fra le dita le pieghe del lenzuolo. Che dice? Nulla dice. Ma perché non vuol parlare? Che è venuto a fare se non vuol parlare? Non mi risponde, replicò lei sempre con quella voce che pareva venisse da una profonda lontananza. Ma che fa? Mi guarda fissamente, ha gli occhi così tristi. Così tristi. Mi guarda con pietà. Perché mi guarda così? Come se fossi morta. Sono forse morta io? Oh. Ora andrà via senza averti detto niente, urlò il marchese di Formosa. Domandagli che numeri escono domani. La figliuola emise un lamento straziante. Mi pare che pianga adesso. Quasi che io fossi morta, questo mi pare. Gli scendono le lacrime sulle guance. Il pianto. 65, disse Formosa a se stesso, come se temesse che qualcuno lo udisse. Leva la mano per salutarmi. Guarda quante dita solleva. Guarda bene, non ingannarti. 3 dita. Mi saluta. Mi saluta, se ne vuole andare. Digli che ritorni. Pregalo, pregalo. Accenna col capo di sì. Riprese dopo una lieve pausa Bianca Maria. Se ne va. Se n'è andato, è scomparso. Oh, lodiamo il Dio, gridò Cavalcanti inginocchiandosi ai piedi del letto. 3 le dita, 5 la mano, 65 il pianto. Bisogna sapere che numero fa la fanciulla morta. Ringraziamo il Signore. Sì, sì, mormorò la ragazza con accento bizzarro. Bisogna che vediate quanto fa la fanciulla morta. Bisogna saperlo. Lo sapremo, lo sapremo, esclamò Formosa, ridendo come un folle. Non pensava più a sua figlia, la cui febbre era arrivata al più alto grado, con la violenza delle effimere che pare vogliano portare via in 24 ore un'esistenza. Ella affannava, bevendo l'aria dalla bocca schiusa, simile a un uccelletto che muore. Il sangue batteva così precipitosamente alle pareti delle vene che sembrava le spezzasse e tutto quel fragile corpo abbruciava come un ferro rovente. Invece, alla livida e glaciale luce dell'alba, pallido con gli occhi stralunati, il marchese di Formosa girava con passo vacillante per il suo appartamento, cercando nei cassetti vuoti e sui rari mobili qualche cosa da vendere o da impegnare. Non trovava nulla e con le mani brancolanti tornava ad aprire i cassetti, battendoli forte, macchinalmente, e si guardava attorno con la follia nello sguardo, pensando di voler vendere o impegnare le nude mura di quella casa che era stata sua. Nulla, nulla. A poco, divorati dal gioco del lotto, erano scomparsi i gioielli di immenso valore, le pesanti argenterie antiche e moderne, i quadri dei grandi pittori, i libri preziosi, le rarità artistiche di bronzo d'avorio, di legno scolpito. La casa si era denudata, rimanendovi solo i mobili che sarebbe stato vergognoso voler impegnare o vendere. Ahi, che non trovava nulla per far denaro, per giocare i numeri dello spirito. Egli si torceva le mani dalla disperazione, mentre aveva lasciata Biancamaria nel sopore affannoso, febbrile, in cui ancora qualche confusa parola le sfuggiva, mentre i due vecchi servi ancora dormivano. Entrò finanche nella cappella come un pazzo, ma le lampade che vi ardevano erano di ottone, ma le frasche sull'altare egli stesso le aveva comprate di metallo in imitazione d'argento, quando aveva venduto quelle di argento vero. Pensò per un momento a prendere la coroncina di argento dal capo della Madonna addolorata e di toglierle dal cuore quelle sette spade d'argento, le piccole spade che raffigurano i dolori della Gran Madre straziata, ma lo trattenne un timore mistico. Uscì senza aver potuto neppure dire una preghiera, tanto lo tenea in quell'alba l'allucinazione della notte e la fretta febbrile della mattinata di sabato. Pensava ora a chi avesse potuto chieder denaro in prestito, ma non trovava la persona e si stringeva le tempie tumultuose fra le mani per concentrarsi, per arrivare a ottenere lo scopo. Tutti gli amici del suo ceto e i suoi larghi parenti, dopo la morte di sua moglie, si erano allontanati da lui, ma solo dopo che egli li avesse messi a contribuzione tutti quanti per giocare. Gli amici di adesso? Tutti giocatori. Tutti in quella mattina facevano dei tentativi disperati per giocare ancora e non prestavano certo denaro. Ognuno pensava a sé, cercava per sé. Amici nuovi? Quella passione non gliel'aveva fatti trovare fuori di quella morbosa cerchia di pazzi dannosi come lui. E ci voleva molto denaro, molto, perché lo spirito si era degnato di rivelarsi. Bisognava far fortuna in quel giorno o mai più. Ad un tratto un lampo di luce lo colpì. Un nome gli si era affacciato alla mente. Costui gli poteva dare del denaro. Era un galantuomo, ne aveva molto del denaro, non avrebbe rifiutato un piccolo prestito a un Formosa. E mentre seduto presso la sua scrivania, sopra un foglietto strappato da un taccuino pieno di cifre, egli scriveva al dottor Antonio Amati, pensava che non era vergogna quel prestito chiesto a un estraneo, poiché egli avrebbe restituito quel denaro la sera stessa. Quando ebbe scritto, un pensiero lo fece tremare. E se Amati dicesse di no? Era un indifferente, un estraneo. Il denaro indurisce tutti i cuori. Porta questa lettera al dottor Amati e torna qui. Egli disse a Giovanni, che si era presentato maldesto al suono del campanello. Dormirà. Porta, comandò Formosa. E si mordeva le labbra adesso, sicuro che Amati avrebbe rifiutato, sentendo il rossore della vergogna salirgli alle guance. Ma doveva aver denaro, ne doveva avere a qualunque costo. Buttato sulla poltrona, guardando senza vederle le cifre scritte sulle carte disperse sulla scrivania, egli si sentiva vincere da quella collera irrefrenabile della passione, alle prese con la realtà. «Quando si sveglia darà la risposta», disse Giovanni rientrando e aspettando in silenzio gli ordini del suo padrone. «Giovanni, dammi l'altro denaro che hai», disse sordamente Formosa. «Non ne ho, eccellenza», rispose l'altro assalito da un tremito. «Non dir bugie, hai altre 50 lire, dammeli subito». «Eccellenza, le ho prese in prestito da un usuraio, debbo restituirle a tanto la settimana, non me le togliete, non me ne importa niente», disse superbamente Carlo Cavalcanti. «Non me le togliete, eccellenza, se sapeste a che servono, non me ne importa niente», replicò ferocemente il marchese. «Dammi le 50 lire. Servono per far mangiare la marchesina. Non me ne importa niente!» urlò Formosa. «Quando è così, ubbidisco», disse disperatamente il servo. E cavò le altre 50 lire. Il marchese le afferrò con l'atto di un ladro e se le mise in tasca rapidamente. «Tua moglie anche ha denaro. Cercaglielo», riprese Cavalcanti freddamente. «Chi gliel'ha dato a mia moglie?» «Ne ha. Fattelo dare e portalo qui. Risparmiami una scena. Se tua moglie nega, potete andarvene dalla mia casa, subito». «No, signore, no, signore eccellenza. Vado subito», disse umilmente il servo. Ma di là vi fu la scena. Il dialogo fra marito e moglie fu lungo, agitato. La donna non voleva lasciarsi portar via il denaro. Gridava, piangeva, singhiozzava. Alla fine vi fu un silenzio. E poi come un lamento. Giovanni rientrò con la vecchia faccia sconvolta, più curvo, quasi colpito da un tremor paralitico. E deponendo altre 50 lire sulla scrivania, in silenzio, con gli occhi rossi delle scarse e brucianti lacrime dei vecchi, egli colpì tanto il marchese che costui, placato a un tratto, disse bonariamente: «Sono 300 lire fra ieri sera e stamattina. Stasera avrete tutto. E il pranzo di oggi? Verrò io alle 4», disse vagamente il marchese. «La signorina è ammalata, vorrà un poco di brodo stamane», mormorò il servo. Allora, cercandosi in tasca con la smorfia dolorosa dell'avaro, il marchese di Formosa diede 3 lire al servo, seguendole con lo sguardo avido. Avevano bussato. Formosa trasalì. Era la risposta del dottor Amati. Non importa adesso se dicevano, ma come ebbe nelle mani la busta, alla divinazione del tatto comprese che i denari chiesti vi erano e, rosso di gioia, si mise la busta in tasca senza aprirla. Usciva adesso, usciva alle 8 del mattino, come se lo portasse un soffio irresistibile. Usciva senza voltarsi indietro a guardare la figlia inferma, la sua casa nuda, i suoi servi piangenti che gli avevano dato tutto, il suo vicino a cui egli non aveva pagato le visite e a cui aveva osato chiedere del denaro in prestito. Usciva portando seco 350 lire. Che avrebbe messe tutte sul biglietto dello spirito, mentre aveva lasciato digiuni i 2 poveri vecchi servi e aveva lesinato sopra un po' di brodo per Bianca Maria. Niuno lo rivide in casa sino al pomeriggio. La fanciulla era restata a letto, vinta dalla febbre, ardendo, respirando faticosamente e chiedendo ogni tanto da bere, nient'altro. Margherita si era seduta accanto al letto, dicendo mentalmente il rosario 2 o 3 volte, per lasciar passare le ore, e ogni tanto metteva la mano sulla fronte dell'inferma, sgomentandosi del calore. La malata taceva, dormiva, con la respirazione oppressa. Ad un tratto, aprendo gli occhi, disse nitidamente a Margherita: «Chiamami il dottore. Ora non sarà in casa. Quando ritorna?» E richiuse gli occhi. Il dottore non venne che alle 4:30. Si fermò sulla soglia della cameretta, odorando l'aria di febbre. «Potevate chiamarmi prima», disse ruvidamente a Margherita. «Vostra eccellenza, se potessi dirvi...» Egli le ordinò di tacere. La malata lo guardava coi suoi belli e dolci occhi sbarrati e gli tendeva la mano. E il forte uomo, dalla testa poderosa, dalla faccia genialmente brutta, prese innanzi a quella fragile creatura quella profonda aria di tenerezza che gli sgorgava spontanea dal cuore. Il medico sentì subito che quella febbre sarebbe finita. Già decadeva con la rapidità delle effimere, ma a lui restava confitta in cuore la spina di quella povera esistenza, traballante fra la vita e la morte, vinta da un morbo di cui egli non trovava le cause. «Ora vi ordino una medicina», disse lui dolcemente alla malata, tenendo la mano fra le sue. «No», disse lei piano. «Non la volete?» «Ascoltate», disse lei attirandolo a sé per farsi udir meglio. «Portatemi via». Tremava dicendo questo. Antonio, improvvisamente pallido, colpito da un'emozione indicibile, non potette neppure risponderle. «Portatemi via», soggiunse ella umilmente, come se lo supplicasse. «Sì, cara, cara», balbettò lui. «Dove voi volete, subito?» «In campagna, lontano», sussurrò la poveretta, «dove non si vedono fantasmi, nella febbre, dove non ci sono ombre né spettri paurosi». «Che dite?» disse lui sorpreso. «Niente, portatemi via, in campagna, fra il verde, nella pace, con vostra madre, innanzi a Dio». «Oh, cara, cara!» Non seppe dire altro il grande uomo nel turbamento supremo, nella suprema dolcezza di quell'idillio. «Lontano», mormorò ancora ella, guardandolo coi grandi occhi buoni. E soli, dolcissimamente, castamente, senza parlarne, parlavano d'amore.